Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Recovery Fund Conte, il risultato ottenuto appartiene all'Italia, il Presidente del Consiglio riferisce alla Camera e al Senato. Coronavirus isolati, super anticorpi per farmaci e vaccini, la scoperta della Columbia University pubblicata su Nature. Intanto oltre 1000 morti in un giorno negli Stati Uniti, contagi in crescita anche in Messico e Argentina. Inchiesta senza precedenti a Piacenza, una caserma dei carabinieri sotto sequestro per gli inquirenti, era un centro di spaccio ed estorsione. Sport, calcio, vittoria per Atalanta e Milan, Pioli confermato e stasera altre 4 partite in campo Roma e Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, il Presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera e al Senato sull'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund e poi in primo piano anche un'inchiesta senza precedenti, avete sentito dai titoli, alla caserma di Piacenza che secondo gli inquirenti si sarebbe trasformata, la caserma dei carabinieri, in una centrale dell'illegalità. E poi in primo piano anche la scoperta di questi super anticorpi, Columbia University pubblicata su Nature, che potrebbero aiutare nella ricerca di farmaci e vaccini anti-Covid. Ma come detto, iniziamo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sta riferendo proprio in questi minuti in Parlamento sull'accordo raggiunto a Bruxelles, un risultato, dice, dell'Italia intera. Un accordo di portata storica che preserva il mercato unico e l'unione monetaria. Nella sua informativa al Senato il Premier Conte giudica così l'intesa sul Recovery Fund raggiunta a Bruxelles dopo una lunga e difficile trattativa. Nonostante le rigidità di alcuni paesi, sapevamo di non poter fallire, dice il Presidente del Consiglio, che rivendica come un successo i 209 miliardi di aiuti ottenuti dall'Italia. L'Italia ottiene un risultato all'altezza delle aspettative. Un esito, lo avete constatato, persino migliore rispetto all'iniziale proposta avanzata dalla Commissione europea per quanto concerne l'ammontare complessivo dei fondi destinati al nostro Paese. Per Conte è stata una vittoria della linea italiana anche riuscire a scongiurare il rischio di un diritto di veto sugli aiuti. L'importante ora sarà andare avanti con il piano per le riforme, ha poi sottolineato il Premier. Questo governo si assume la responsabilità di predisporre, realizzare questo piano con impegno, determinazione, lungimiranza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora, come detto, la scoperta scientifica che arriva dagli Stati Uniti e che apre a nuovi farmaci e vaccini isolati gli anticorpi che mostrano di essere i più efficaci contro il nuovo coronavirus. Intanto più di 1000 i morti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Una svolta nelle cure è quella che regalano i super anticorpi isolati alla Columbia University di New York. Tra i tipi di anticorpi che sono stati prelevati dai malati di Covid-19, questi sono quelli che, mostrandosi più efficaci contro il coronavirus, aprono la strada allo sviluppo di efficaci farmaci e vaccini. I risultati del lavoro dei ricercatori americani sono stati pubblicati sulla rivista Nature poco dopo l'annuncio, pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, dei progressi nello studio del vaccino del team di Oxford, su cui puntano diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Un altro studio, sempre pubblicato su Lancet, ha registrato i progressi del vaccino su cui sta lavorando la Cina, lo stesso che da ieri sta testando sull'uomo il Brasile, che nelle ultime 24 ore ha subito altre 1.400 vittime e 40.000 contagi. Oltre 1.000 morti nell'ultimo giorno anche negli Stati Uniti, soglia che non veniva superata dal 9 giugno scorso. Il terzo paese più alto a livello mondiale quanto a contagi rimane l'India, che nelle ultime 24 ore ha subito quasi 38.000 nuovi casi e 700 decessi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto in Italia, a proposito dei test sierologici, fa alcuni passi in avanti l'inchiesta della Procura della Repubblica di Pavia, indagati i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin nell'ambito dell'inchiesta sull'accordo tra l'ospedale pavese e la società piemontese per l'effettuazione di test. A darne notizia la Procura stessa, sentiamo. Finora c'era solo un fascicolo conoscitivo aperto dalla Procura di Milano e un ricorso al TAR passato da poco al Consiglio di Stato. Ora la Procura di Pavia apre un fascicolo vero e proprio sull'affidamento diretto da parte della Regione Lombardia alla Diasorin per 500.000 test sierologici da 2 milioni di euro, realizzati a seguito di una sperimentazione avvenuta nei laboratori del Policlinico di Pavia San Matteo. Indagati sia i vertici del San Matteo che quelli della Diasorin per turbativa d'asta e peculato. Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito i locali della società e del Policlinico. Secondo la procura, c'è il sospetto che la Diasorin sia stata favorita a discapito di altre potenziali concorrenti grazie ai risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dal San Matteo di Pavia nel settore dei test sierologici per la diagnosi del Covid-19. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, la Procura di Torino ha concluso le indagini sulle presunte violenze, ma anche casi di tortura ai danni di detenuti del carcere del capoluogo piemontese, lo russo Cutugno. Tra i 25 indagati nell'inchiesta, coordinata dal PM Francesco Pelosi, finiscono anche il direttore del carcere e il capo delle guardie carcerarie. A Piacenza invece un'altra inchiesta senza precedenti. Al centro una caserma dei carabinieri posta sotto sequestro, almeno 6 militari arrestati tra i reati contestati spaccio di droga e estorsione. I sigilli alle porte della caserma dei carabinieri di Piacenza e l'intera struttura posta sotto sequestro, una cosa mai accaduta prima in Italia, con tanto di indagini che svelano un mondo in cui chi dovrebbe garantire l'ordine è invece a capo di un sistema corrotto fatto di spaccio, estorsioni, torture e arresti illegali. Per questo, sei carabinieri della stazione Levante di via Caccialupo a Piacenza sono stati arrestati. L'indagine ha messo in luce anni di illegalità. I reati commessi partono dal 2017. L'inchiesta nasce dalla segnalazione di un ufficiale dei carabinieri che ha lavorato a Piacenza. Tra i vari episodi anche il pestaggio di un cittadino arrestato ingiustamente e accusato poi di spaccio di droga attraverso prove false. Alla guida dell'inchiesta è il neoprocuratore della Repubblica Grazia Pradella, che in conferenza stampa non nasconde l'incredulità iniziale quando via via emergeva il quadro che poi si è ben delineato. Ma quello di sembrare più bravi degli altri perché venivano eseguiti più arresti. Peccato che questi arresti sempre si basavano su circostanze inventate. Tra le ipotesi d'accusa anche certificazioni fornite da un carabiniere in modo da consentire agli spacciatori piacentini di raggiungere Milano per rifornirsi di droga durante il lockdown. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora a Roma è stato confiscato dallo Stato il centro Salaria Sport Village, ricorderete, salito agli onori delle cronache ai tempi dell'inchiesta sulla cosiddetta cricca degli appalti romana. La confisca del Salaria Sport Village, eseguita dalla Guardia di Finanza, è l'ultimo atto del processo per gli appalti del G8 dell'Aquila. Vicenda giudiziaria cominciata nel 2010, quando l'indagine dei magistrati scoprì un sistema gelatinoso di tangenti e favori nell'ambito dei grandi eventi. Opere pubbliche come appunto il Summit Internazionale del 2009, sulle quali aveva messo le mani quella che i magistrati definirono la cricca degli appalti, al vertice della quale c'erano l'allora presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci, poi condannato a 6 anni e mezzo, e l'imprenditore Diego Anemone, proprietario del più grande centro sportivo della capitale, finito sotto sequestro nel 2014 e oggi sottoposto a confisca definitiva dopo la sentenza della Cassazione. La struttura all'epoca finì al centro dello scandalo anche perché lì, secondo l'inchiesta, l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, coinvolto nello stesso processo e poi assolto, avrebbe ricevuto prestazioni sessuali fornite, secondo l'accusa, proprio dall'imprenditore condannato a 6 anni nel 2018 e che, sottolineano le Fiamme Gialle, acquistò l'impianto con soldi frutto di reati quali evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Genova si è conclusa ieri sera positivamente la fase di prove di carico del collaudo del nuovo ponte. Al termine delle analisi, nei prossimi giorni, l'ANAS, che è l'ente autorizzato per questo genere di prove, consegnerà i risultati del collaudo. L'inaugurazione del nuovo ponte, come è stato già detto, ci sarà il 3 di agosto. Adesso parliamo invece di migranti. Proseguono gli sbarchi sulle coste italiane. Secondo le ultime stime sono 10.000 gli arrivi quest'anno. Un quarto provengono dalla Tunisia e ben il 20% degli arrivi delle ultime settimane risulta positivo al Covid. Mentre Sea-Watch e Alarm Phone segnalano un gommone in difficoltà con 120 migranti senza salvagente a bordo a una 50 di miglia dalle coste libiche in acque internazionali, in Italia preoccupano i numerosi casi di positivi a coronavirus. Secondo Luca Ricolfi della Fondazione IUM, la percentuale di positivi fra i migranti è del 20%, 1 su 5. In Basilicata sono 36, si trovano in isolamento in strutture di accoglienza di Potenza in provincia di Matera. Erano arrivati a Lampedusa, dove continuano gli sbarchi. Sono 500 le persone ammassate in una struttura, l'hotspot, che ne potrebbe contenere 95. La prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di almeno 150 di loro per alleggerire le presenze, ma sono continui gli avvistamenti e i soccorsi di barchini. per lo più tunisini, che sono la prima nazionalità di sbarco in Italia nel 2020. Non è difficile capire perché la Tunisia attraversa una crisi politica ed economica incandescente. Il primo ministro è dimissionario, il Parlamento è nel caos e il presidente ha parlato di crollo delle istituzioni. Una crisi a cui l'Italia, anche per ragioni opportunistiche, non può essere indifferente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, il calcio, a Serie A. Stasera si giocano altre 4 partite: Roma contro la Spal, Napoli impegnato a Parma. Tra gli impegni di questa sera, vittoria invece ieri per Milan e Atalanta, rossoneri che rinnovano il contratto a Pioli. L'allenatore, sentiamolo nel dopo partita ai microfoni Sky. È stato un percorso che inevitabilmente ha richiesto un po' di tempo, siamo una squadra giovanissima, è un conto cominciare dall'inizio, è un conto subentrare, trovare delle situazioni ai quali non sei preparata, quindi abbiamo avuto bisogno di tempo. Abbiamo creduto, ci ho sempre creduto, ci abbiamo sempre creduto, questo credo che sia stato il nostro merito maggiore. 13:11 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie di Effetto Giorno. Ripartiremo dal caos nidi e materne a settembre, perché tante famiglie sono rimaste fuori proprio in queste ore dalle graduatorie, quindi non ci sono posti negli asili nido e nelle materne delle città italiane. Cercheremo di capire perché sta accadendo per via del Covid, ma anche se siamo in tempo a cambiare in corse, quindi ad aprire in qualche modo le porte agli asili nido ai bambini italiani. 349-238-6666, a tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Recovery Fund, il Presidente del Consiglio riferisce alla Camera e al Senato. Coronavirus, isolati i super anticorpi per farmaci e vaccini, la scoperta della Columbia University su Nature. Asili nido e materne, caos per le graduatorie di settembre, comuni senza linee guida tagliano fino al 10% dei posti, ne parliamo tra poco. Sport, calcio, vittoria per Atalanta e Milan, stasera altre 4 partite in campo Roma e Napoli. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. E allora, come anticipato anche dal sommario, parliamo della questione nidi e materne. Insomma, come se già non bastasse non avere chiarezza sulla riapertura della scuola a settembre, come sarà, se ci sarà ancora didattica a distanza, se ci saranno orari di ingresso scaglionati, insomma un sacco di dubbi. Per le fasce più basse, da 0 a 6 anni, la nebbia è ancora più fitta. E in realtà è una nebbia che si è diradata nelle ultime ore, quando, per esempio a Milano, ma sta accadendo anche in altre città, le famiglie proprio ieri si sono viste non recapitare in realtà una mail di conferma dell'iscrizione dei figli a settembre, persone che ad aprile invece avevano fatto questa iscrizione. In sostanza c'è un taglio dei posti in nidi e materne di almeno il 10%, almeno per quanto riguarda il comune di Milano, ma il problema è generale. Ne parliamo con Federica Ortalli, che è presidente di Assonidi, l'associazione asili nido e scuole dell'infanzia privati. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Allora, difficile, ci siamo confrontati anche prima dell'intervista, rintracciare l'origine di questo problema. Difficile perché un problema potrebbe esserci se ci fossero delle linee guida chiare che dicono che bisogna rispettare certi parametri di spazio nelle scuole, certi parametri nel rapporto tra il numero di bambini e il numero di insegnanti, parametri che ci sono ma che in questo caso non sono cambiati rispetto all'anno scorso. Dunque, com'è che si arriva, Ortalli, a questo di fatto taglio dei posti? Parliamo di Milano, ma insomma lei rappresenta la categoria sul territorio nazionale. La questione riguarda quasi tutte le città. Esatto. Allora, diciamo che abbiamo due documenti da cui partire. Uno è stato fatto il 28 di maggio dal famoso CTS, Comitato Tecnico Scientifico, che fa capo al governo, al Ministero dell'Istruzione, che recita indicazioni per la scuola dell'infanzia. Quindi qua vediamo che il nido, ancora una volta, lo 03 è stato completamente dimenticato dal governo. Si dice è opportuno prevedere un affollamento ridotto, e questo è il primo motivo per cui è stato ridotto il numero. Dopo il 28 di maggio è stato emanato il piano scuola, il 23 di giugno, sempre dal governo. Qua si parla di stabilità dei gruppi. Allora, e questa è una parola va spiegata. Cosa vuol dire stabilità dei gruppi? Allora, se io devo ridurre l'affollamento, riduco il numero di bambini. Se io devo avere la stabilità dei gruppi, vuol dire che il gruppo di bambini, prendiamo ad esempio il rapporto numerico un educatore 8 bambini che vige in regione Lombardia, ogni regione ha un rapporto diverso. Mm-hmm. In Lombardia avrò un educatore e 8 bambini, questi 8 bambini staranno con questo educatore, che però ha un contratto collettivo di lavoro nazionale per 6 ore nel pubblico e 7 ore e mezza nel privato. Quindi vuol dire che il mio bambino andrà a scuola 6 ore se deve sempre solo vedere quell'educatore, o 7 ore e mezza nel privato se deve sempre stare e vedere quell'educatore. Allora, la stabilità dei gruppi non può e non deve essere la ratio per riaprire gli asili e le scuole dell'infanzia. Perché altrimenti, se ho capito bene, Ortali si sta dicendo bisogna ridurre l'assembramento, l'affollamento all'interno delle aule materne. Certo. Quindi bisogna aumentare la rarefazione. Però di fatto chi c'è già, e quindi questo è il concetto di stabilità, viene in qualche modo confermato. I problemi sono relativi a chi deve iscriversi quest'anno, e per questi in alcuni casi può non esserci posto. Questo diventa il criterio per risolvere in una maniera che definire maldestra direi è poco, ma insomma questa questione. Ci sono sostanzialmente due documenti che non si parlano, il CTS sono e il due Ministero. Documenti che non si parlano, sono due documenti fatti ancora in una situazione di emergenza, ma peggio ancora sono delle ipotesi o indicazioni. Quindi noi siamo ancora in attesa delle vere e proprie linee guida da parte del governo e poi delle singole regioni calate sui comuni, sì, che devono dare delle indicazioni. Speriamo non di carattere organizzativo gestionale, perché per quello ci sono i decreti di legge su come organizzare i rapporti numerici di spazio e quant'altro. Dovrebbero dare unicamente delle indicazioni di carattere sanitario, che peraltro già conosciamo. Quindi questo avrebbe consentito di bypassare questo problema, come dire, garantire l'iscrizione a tutti, ma fermo restando certe normative di carattere sanitario, sì, che ben conosciamo. Soprattutto garantire l'asilo nido e la scuola dell'infanzia così come sono sempre state, dei luoghi di svago, di gioco, educativi per tutti i bambini. Senta Ortali, nei casi che lei ha sotto mano, il suo, le strutture che lei gestisce direttamente, insomma le realtà che conosce, parliamo in questo caso di nidi privati, uh-huh, quanti posti in meno, quante persone rimangono fuori rispetto a quella che è la potenziale offerta vostra, se ci avete allora, un numero? Per i nidi privati che ancora rimangono aperto, consideriamo che ne hanno chiuso un 15% e probabilmente quando finisce la cassa integrazione arriveremo a una chiusura quasi del 40% delle strutture sul territorio lombardo, ma probabilmente anche nazionale. Per chi è aperto sicuramente almeno un 10%, se dobbiamo basarci su queste indicazioni del piano scuola e del documento tecnico. In realtà noi speriamo di tornare esattamente al pre-Covid come prima, sì, e applicare delle misure ovviamente di igiene e di sicurezza che ci verranno indicate, ma che peraltro al nido già venivano comunque utilizzate. Non è un mistero che noi facciamo levare le mani ai bambini, che gli certo insegniamo come si lavino le mani. Quest'anno poi sarebbe stato tutto naturalmente rafforzato, un concetto rafforzato, certo, e certo spinto fino alle estreme conseguenze, è chiaro. Senta, ma perché la sensazione, per chiudere, è che mentre diciamo l'Italia si è rimessa in moto, e per fortuna il virus no, l'Europa si è rimessa in moto tutto per quanto riguarda scuole, e in questo caso anche nidi e materne, sia tutto fermo e enormemente complicato. Ma per esempio i centri estivi, per prendere un termine, una misura, no, di quello che è riaperto, che sono effettivamente riaperti, in che condizioni? Hanno riaperto dentro le strutture dei nidi e delle scuole. Paradosso. Assolutamente, allucinante. Esatto, paradosso. E potrebbe essere preso ad esempio a misura come sono funzionati i centri estivi, per dire se sono funzionati i centri estivi possono riprendere anche nidi e materne nelle stesse condizioni. Assolutamente, abbiamo creato un precedente completamente antieconomico. Infatti non è stato economico per i genitori, perché comunque hanno dovuto pagare dei costi, certo, superiori rispetto ai centri estivi in precedenza, e nemmeno per i gestori, perché si sono visti sì e no il 20% della capienza degli iscritti normali. Il comune ha registrato un terzo dei bambini sui centri estivi, quindi non è neanche stato un successo. Ma perché? Perché come sempre all'ultimo ci hanno dato delle indicazioni. Il governo è stato carente, assente e silente per tutto questo tempo sulla scuola. Speriamo, l'unico in tutta l'Europa. Federica Ortalli, grazie per essere stata con noi, grazie la presidente voi, di Assonidi. Speriamo che base, parte la base, no. Speriamo la base che accompagna questo ragionamento, no, di chiusura di questa intervista. Speriamo, stavo dicendo, che effettivamente, visto che insomma, abbiamo ancora metà mese di luglio, tutto il mese di agosto, che ci sia però repentinamente un ripensamento e che si consenta insomma, a chi è nelle condizioni di, rispettando le norme di sicurezza, di garantire quanti più posti possibili negli asili nido, fosse anche investendo, facendo un investimento straordinario, visto che sta arrivando una pioggia di miliardi da Bruxelles, o no. 13:23, torniamo proprio su Bruxelles, perché l'accordo raggiunto ieri ridisegna anche la geografia dei poteri, degli equilibri all'interno delle istituzioni europee, ma anche tra forze politiche europee e tra diversi paesi. Ce li racconta Sergio Nava. Chi vince e chi perde. L'intesa sul Recovery Fund raggiunta ieri a Bruxelles ridisegna i rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea con interessanti implicazioni future. L'asse franco-tedesco conferma di avere ancora in mano il timone della nave e di riuscire a giocare un ruolo di mediazione. Nonostante nettamente più schierate coi paesi del sud, Berlino e Parigi hanno guidato le trattative rivestendo i panni dei poliziotti buono e cattivo. Più irruento e integrazionista Macron, che arriva quasi al confronto diretto coi frugali, più flemmatica e imperturbabile la Merkel. Il gruppo frugale maschera la gigantesca concessione di un primo debito comune europeo, vero e proprio tabù fino alla primavera, con una battaglia logorante che rivede al ribasso le sovvenzioni e la loro facilità di esborso. Pragmatico il fronte mediterraneo, che alla fine porta a casa anche più del previsto in termini di prestiti, grazie ad un abile gioco contabile. Bravo regista, dopo i tentennamenti dei mesi scorsi, il presidente europeo Michel, capace di aspettare il momento giusto per calare il poker. Tutti contenti? Non proprio. La Commissione vede sparire o ridursi i programmi post-pandemici su sanità, digitale, green, investimenti e ricerca. Forse si è guardato un po' troppo alle esigenze immediate e meno a costruire le basi per una ripartenza futura. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, abbiamo dato notizia dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, Ponte San Giorgio, il 3 di agosto. Qualche mese fa, lo ricorderete, in piena fase Covid, l'8 aprile, è crollato un altro ponte sul fiume Magra ad Albiano, una frazione di Aulla nella striscia di terra tra la Liguria e la Toscana. Un tratto, in questo caso, gestito dall'ANAS, solo grazie al fatto che eravamo in lockdown non ci furono vittime, due furgoni coinvolti, due feriti. A 100 giorni di distanza non c'è traccia ancora di nessun tipo di attivazione di lavori di demolizione o ricostruzione. Ne parliamo con il sindaco di Aulla, Roberto Vallettini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Tanto buongiorno per dire, a voi, buongiorno agli ascoltatori. Tanto per dire, sindaco, che i problemi della rete viaria italiana, delle infrastrutture, delle strade italiane non saranno risolti d'un tratto, con un colpo di bacchetta magica, con l'addio dei Benetton da Aspi, quando questo avverrà. Questa è un'altra partita, questo è un tratto di strada gestito da ANAS, però diciamo che le somiglianze, veramente si disse in quei giorni, è stato un miracolo, perché quello è un ponte trafficatissimo, eravamo in pieno lockdown, circolavano poche macchine. Sì, è stata nella disgrazia una fortuna che ci fosse il lockdown, perché quello è un ponte trafficatissimo. Quando mi hanno detto che era crollato e naturalmente sono accorso subito, il sangue mi è andato in acqua, come si dice qui, sì, in Lunigiana, perché effettivamente il pensiero che potessero esserci delle vittime è stato forte. Senta, ora c'è un... Sì, mi scusi, soltanto qualche giorno fa, per arrivare ad oggi, se ho capito bene, la magistratura ha autorizzato la possibilità di rimuovere i due furgoni e uno solo dei due è stato rimosso, giusto? Sì, questo è stato quanto risulta anche a me. Devo registrare che invece le autorità amministrative, sì, gli enti competenti, ad oggi, passati oltre 110 giorni, non hanno ancora iniziato ad operare alcunché. Il risentimento da parte della popolazione è più che comprensibile e più che condiviso. Senta, invece la magistratura, che ha appunto autorizzato soltanto adesso, chiaramente il ponte è stato sequestrato per fare tutta una serie di valutazioni e di indagini, soltanto adesso la rimozione dei furgoni, è giunta a qualche prima valutazione, è stato possibile accertare qualcosa o anche sotto quel punto di vista siamo, come dire, lontani da un punto fermo, immagino? No, dal punto di vista giudiziario e delle indagini siamo nell'ambito dell'incidente probatorio. L'incidente probatorio è appunto un'anticipazione di quella fase che sarebbe poi propria del dibattimento, lo dico per la mia esperienza professionale di 40 anni di avvocato, e quindi è chiaro ed evidente che fin tanto che non sia concluso l'incidente probatorio, ogni conclusione sarebbe inopportuna, sarebbe indubbiamente un'illazione e non anche una conclusione confortata da elementi di una qualche rilevanza e di significanza. Senta, ricordiamo, Sindaco Valettini, che lei aveva mandato numerose richieste di intervento all'ANAS per quel ponte perché c'erano state segnalazioni sul fatto che ci fossero delle crepe, che ci fossero delle preoccupazioni proprio per la tenuta, è così? Sì, è vero. Gli abitanti di Alviano e di Caprigliola, che sono le due frazioni del comune di Aulla connesse da questo ponte, ma anche altri, sentivano delle oscillazioni, c'erano anche delle fessurazioni in vero molto modeste, ma io ho scritto sia alla provincia, che era l'ente precedentemente competente, sia all'ANAS, più lettere, pretendendo poi indagini approfondite, e alle mie lettere è stato poi risposto dicendomi che non vi era nessun problema di staticità al ponte e non si ravvedeva la necessità di interventi di alcun genere. Quando dopo questa lettera ne ho scritta un'ulteriore per sottolineare che comunque c'era preoccupazione, mi è stata mandata la fotocopia della precedente, quasi a dire ti abbiamo già risposto, non rompere le scatole, che lei non è competente in materia. L'ho detto io in un modo un po' brutale, ma mi sembra che la fotocopia della risposta precedente fosse proprio molto chiara da questo punto di vista. L'ultima cosa che le chiedo, Sindaco Valettini, è questa: cosa immaginate voi, cosa chiedete, qual è la proposta operativa che fate? Si è parlato molto per ricostruire le opere necessarie in Italia del modello Genova, anche se sindacati e aziende hanno sconsigliato il governo di procedere in questo modo perché si limita la concorrenza anche delle aziende che devono intervenire per fare i lavori. Voi qual è la vostra proposta? La proposta del Comune di Aulla è stata quella di procedere il più speditamente possibile alla costruzione delle rampe di accesso all'autostrada che passa di lì, che è l'A15, e nel contempo partire quanto prima con un ponte definitivo. È chiaro ed evidente che la burocrazia, che a mio avviso è il primo grande male di questo nostro paese, non ha ancora consentito che il commissario potesse partire perché l'espletamento dell'iter amministrativo della sua nomina è stata di una lunghezza esasperante. Grazie a Sindaco di Aulla Roberto Valettini, grazie per essere stato con noi. Staremo a vedere se poi insomma qualche risposta arriverà anche su questo fronte. Per quanto riguarda 100 giorni che sono trascorsi dal crollo del ponte sul Magra ad Albiano, 13:30 minuti, noi facciamo un break, torniamo tra poco, 349-238-6666 come sempre per intervenire con i vostri messaggi. Ripartiremo da un'intervista con il professor Andrea Crisanti, chiederemo se il virus è sparito in Italia, se è vero che c'è una rottura col presidente del Veneto Zaia e cosa dobbiamo aspettarci a settembre per quanto riguarda una seconda ondata. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto giorno. Queste notizie di oggi, Recovery Fund, è un risultato che appartiene all'Italia, così Conte al Senato. Coronavirus, isolati, super anticorpi per farmaci e vaccini, la scoperta della Columbia University su Nature. Fiat Chrysler, perquisizioni alla sede torinese, la magistratura sospetta frode in commercio, alterazioni delle emissioni inquinanti comunicate. Inchiesta a Piacenza, una caserma dei carabinieri sotto sequestro, per gli inquirenti era un centro di spaccio e estorsione. Sport, calcio, vittoria per Atalanta e Milan, Pioli confermato rosso-nero, stasera altre 4 partite in campo Roma e Napoli. :13:36, cari ascoltatori. Allora, andiamo direttamente sul punto di Alberto Orioli, l'ultimo per questa stagione, perché poi iniziano le sospensioni in chiave estiva. Poi sì, comunicheremo anche quando sospenderemo il programma, ma insomma. E poi torneremo in diretta con Andrea Crisanti, professore del Veneto, e faremo il punto su una serie di questioni. Adesso Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Un'Italia ignorante o del tutto priva di fiducia nel sistema scolastico. È la fotografia triste e angosciante che oggi ci propone l'Istat sul livello di istruzione degli italiani. Vediamola. Da noi il 62,2% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha almeno il diploma, ma nell'Unione Europea quel dato sale al 78,7%, Gran Bretagna compresa. La Germania è la migliore, con l'86,6% di diplomati. Peggio dell'Italia soltanto Spagna, Malta e Portogallo. Se guardiamo ai laureati, la situazione è sconfortante. Da noi sono il 19,6%, in Europa il 33,2%. E ciò che è più sconfortante ancora, non c'è alcun segnale che questa quota sia in rapido aumento, anzi. Certo, conta il fatto che l'Italia perde i giovani ed è un paese di anziani, ma non basta spiegare il fenomeno. Proviamo a guardarlo in un altro modo. Non possiamo pensare che l'Italia sia un paese di gente borderline. Dobbiamo prendere atto che il sistema di istruzione e formazione non crea incentivi ad essere seguito, non garantisce il lavoro, né l'efficacia dell'ascensore sociale, non assicura successo, prestigio, non garantisce la selezione della classe dirigente. Forse se il sistema scolastico, dal personale tecnico alle più prestigiose baronie universitarie fino al ministero, prendesse atto con umiltà di questo punto di partenza, magari le cose potrebbero cambiare. 13:38, eccoci qua allora in diretta con Andrea Crisanti. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, facciamo un po' il punto su una serie di questioni, professore. Intanto una piccola premessa, perché è doverosa, insomma, mi viene da raccontarla così. C'erano una volta due figure che avevano creato un modello, il modello Veneto di contrasto al Covid, che aveva registrato, partendo insieme alla Lombardia contemporaneamente, però un contenimento molto diverso. Queste due figure sono Zaia e Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia di Padova, membro del CTS, Comitato Tecnico Scientifico del Veneto. Ora, questo rapporto sembra essersi incrinato. Le ricostruzioni scrivono che Zaia soffre il protagonismo di Crisanti, che Crisanti forse cerca uno spazio nella sanità nazionale. Al di là di questi aspetti personali, però il punto di questa vostra discordia è sembrato, anche in dichiarazioni pubbliche, interessare tutti, perché lei dice adesso Zaia ha cominciato a dar retta a chi dice che il virus è sparito, che non c'è più. Partiamo da qua, professor Crisanti, il virus è sparito, ieri in 9 regioni si sono registrati 0 casi, oppure no, non è così? Il virus non è mai sparito. Penso che tutti gli italiani siano testimoni che ogni giorno ci stanno centinaia di casi, quindi il virus non è sparito. Ci abbiamo sia una trasmissione di virus che è il residuo dell'epidemia che ha colpito l'Italia da febbraio a maggio, e poi abbiamo casi reintrodotti da persone che vengono da aree dove l'epidemia è ancora in fase di espansione. Quindi sono due fenomeni che si sovrappongono. Noi non abbiamo mai raggiunto contagio zero in Italia. Quindi, non avendo mai raggiunto contagio zero, è chiaro che i casi di adesso sono la sovrapposizione di questi due fenomeni. Lei ha proposto anche di fare degli ulteriori controlli, nuovi controlli, di aumentare anche il tracciamento se possibile. Ci sono alcuni punti nevralgici, la Movida, la Toscana sembra raccogliere la sua idea di fare tamponi anche nelle piazze serali. Lei ha parlato dei migranti, per esempio, il 20% secondo alcune stime tra gli ultimi arrivi è positivo al Covid. Ma guardi, il problema, bisogna capire che il virus, per diffondersi, sfrutta il comportamento umano, in modo particolare del comportamento umano sfrutta i contatti che le persone hanno. Quindi più contatti si hanno e più si ha possibilità o di essere infettato o di infettare. e cosa che comunque si aveva già dal, subito dopo le prime settimane dell'epidemia, è che chi si contagia più frequentemente sono i giovani. Si ammalano preferibilmente le persone anziane e con comorbidità, però le persone che più frequentemente si contagiano sono le persone giovani e persone attive, quindi diciamo quella fascia di età che va compresa tra i 25 e i 55 anni, tra i 20 e i 55 anni, quindi sono queste le persone che si contagiano più difficilmente. Quindi è chiaro che se ci sono azioni che in qualche modo intercettano queste persone nei luoghi dove questi contatti avvengono, sicuramente si ha un'idea se il virus circola attraverso queste persone, per poi la gravanza è che queste persone sono quasi tutte asintomatiche, ecco. E quindi di fatto il virus si diffonde sotto traccia, altra complicazione di questa epidemia. Tra un attimo parlerei ancora di questo, anche di cosa dobbiamo aspettarci per settembre. Prima però vorrei concludere l'argomento che riguarda anche proprio il suo rapporto con col presidente Zaia, insomma, che in una occasione ha pubblicamente ringraziato un dirigente regionale non facendo il suo nome per quanto riguarda il celebrato modello Veneto. Parliamo di fare tanti tamponi, di fare tracciamenti. Lei è salito agli onori delle cronache proprio per questo, perché tra i primi ha cominciato a dare questa linea che poi si è rivelata non solo sui media ma anche negli ambienti scientifici la linea che poi è stata seguita, anche il metodo di fare tamponi con una metodologia innovativa, più veloci e più tamponi possibili. Chi ha dato il via a questa strategia in Veneto? Lei si sente in qualche modo di rivendicarlo, guardi, questa cosa? Ma guardi, io la rivendico senza esitazione, poi è stata anche in qualche modo confermata dalla pubblicazione di tutti i dati scientifici sulla più prestigiosa rivista nel mondo, nel quale è stato riconosciuto da tutta la comunità internazionale che questi studi sono stati quelli che hanno giustificato e ispirato la politica di sorveglianza attiva del Veneto. Quindi non ho bisogno veramente di far polemica con nessuno su questo argomento. Va bene, lo considero chiuso, un argomento per chiuso quello che mi riguarda. Era giusto dirlo forse anche agli ascoltatori di Radio 24, perché insomma noi abbiamo cominciato a ricercare la sua voce tempo fa, proprio all'inizio di tutta questa vicenda, e quindi in qualche modo ci ha accompagnato, e era giusto anche dire una parola adesso. Senta, tornando al presente, Crisanti, questa strategia del tracciamento dei tamponi, perché molti italiani pensano che tutto sommato la paura è scampata, il virus ci sarà ancora, però molti sono asintomatici, casi clinici non ce ne sono, insomma possiamo guardare serenamente all'autunno. Ce ne sarà ancora bisogno in autunno di tutto questo sistema? Lei cosa si aspetta? Ma guardi, mi aspetto che diciamo questi focolai in autunno e inverno, se la dinamica della trasmissione a livello mondiale non si attenua, li avremo sicuramente più numerosi e più estesi. E quindi se non saturano e non sopraffano la nostra capacità di reazione, cioè di circoscrivere, isolarli e fare diagnosi, riusciremo a controllare l'epidemia. Ecco, questo penso che il controllo dell'epidemia e la convivenza col virus si giocherà secondo questa linea, insomma. La capacità anche di reazione del sistema sanitario, questo è fondamentale. Sì, questa qua, sì. Se la capacità non verrà saturata, non credo che ritorneremo nelle situazioni di estesi lockdown. Un'ultimissima cosa, professor Crisanti, prima di salutarla. Lei sta conducendo anche uno studio su Vo' Euganeo. Questo virus adesso lo conosce un po' di più. Qual è l'ultima cosa che ha imparato, l'ultimo aspetto che ha conosciuto, che l'ha colpita di questo virus, se ce lo vuole condividere? Ma guardi, la cosa che più mi ha colpito è che, completando l'analisi sierologica, abbiamo scoperto che c'erano 63 persone che erano positive agli anticorpi e negative al tampone, quindi praticamente si erano infettate e guarite prima del 21 febbraio, che porta il totale in questa piccola comunità di casi positivi al 21 febbraio a 160 su 3.000 persone. Guardi, questo è un numero, è un'enormità, se lei considera che la capacità del virus è di moltiplicarsi di 3 volte ogni 5 giorni. Ecco. Questa cosa mi lascia un po' preoccupato, perché significa che il virus ha la capacità di espandersi sotto traccia senza dare notizia di sé, quindi senza creare casi clinici in misura notevole. Ecco, diciamo, questa è per questo che sempre in qualche modo invitato alla prudenza e a guardare in prospettiva, perché sa, l'epidemia non è, l'ho detto tante volte, non è un disastro naturale, uno fa una fotografia e ha un'idea di quello che è accaduto, purtroppo l'epidemia è un processo dinamico e purtroppo, forse vediamo, anche per fortuna, perché diciamo, entra la capacità umana di reagire, no? Certo, poi di rispondere certo, a questo. Certo, grazie certo. Professor Crisanti, grazie per essere stato con noi ancora una volta. E va bene, alle 13.46 minuti invece apriamo la pagina sportiva, siamo in mezzo a guado, no? Ancora di partite di Serie A. Carlo Genta, ciao Carlo. Sì, mezzo a guado, è iniziata ieri la 35esima giornata con l'Atalanta che ha battuto il Bologna, il Milan che ha vinto a Sassuolo, doppietta di Ibrahimovic 2-1, ma soprattutto è cambiato tutto lo scenario per quanto riguarda il Milan, perché a partite in corso si è smontato il castello costruito per mesi. Doveva arrivare Ragnik la prossima stagione, quindi Pioli era di fatto già l'ex, fuori, da certo. tempo ex allenatore del Milan, e Ibrahimovic, ex centravanti del Milan, invece ha cambiato tutto. Ragnik non viene, Pioli confermato, Ibra vedremo, Maldini che se ne doveva andare resterà, e dunque nel giro di poche ore è cambiato davvero uno scenario che scalda i cuori rossoneri, mi sembra di capire. Ma i tifosi del Milan certamente stavano con Pioli, che sta facendo una stagione eccellente, un 2020 straordinario. Però insomma sorprende il fatto che un club che aveva di fatto anticipato il futuro con buon margine di certezza abbia in poche ore smontato tutto, quindi questo sorprende un po'. Oggi non dimentichiamo che tra oggi e domani potrebbe consumarsi lo scudetto della Juventus, perché c'è Inter-Fiorentina, e se l'Inter non batte la Fiorentina stasera e domani la Juventus vince a Udine con l'Udinese, sarà già primo match ball trasformato. Grazie Carlo, grazie. Ciao. Carlo Genta, appuntamento dopo le 14 con tutti i convocati naturalmente. Piccolo break, torniamo tra un attimo.